Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ultimo appuntamento con l'antologia estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi vi riproponiamo una delle nostre puntate monografiche, parliamo di generazione, social network e consumi. Devo inventarmi qualcosa di grosso per farmi notare dai circoli studenteschi. Perché? Perché sono esclusivi, divertenti e ti cambiano la vita in meglio. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Lo avrete riconosciuto, era The Social Network, il film di David Fincher che racconta la storia dei fondatori di Facebook. Ci sembrava il modo migliore per introdurre il focus sui trend di oggi in compagnia, come sempre, della nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. I social network, lo andiamo dicendo da tempo, hanno rivoluzionato il nostro modo non solo di relazionarci con gli amici, Facebook in primis appunto, ma anche di cercare lavoro e promuovere il nostro business, comprare, informarci sui prodotti, sui viaggi, sulle aziende, ma anche informare. Nuove abitudini alle quali tutto il mondo dei consumi si è adeguato, studiando prodotti, campagne di comunicazione, tecniche di marketing destinate appunto alla generazione social network. Sono gli adolescenti di oggi, i cosiddetti nativi digitali. Patrizia. Dire nativi digitali, un termine, lo ricordiamo, introdotto in letteratura da Prensky nel 2001, implica innanzitutto darne una definizione, ma soprattutto implicitamente riconoscerne l'esistenza. Dico questo perché nel dibattito sul tema c'è chi sostiene che i nativi digitali siano un falso mito e, d'altro canto, autorevoli ricerche ne testimoniano l'esistenza. Chi sono i nativi digitali? Sono gli adolescenti che con internet sono nati, anni 90 per capirci, e con i social network crescono e strutturano le loro relazioni sociali. Ricordiamo che tra gli 8 e i 13 anni il 54% dei ragazzi italiani utilizza il PC per andare su Facebook. Lo fanno con grande attitudine partecipativa, sono portatori di creatività e saperi condivisi, soprattutto in rete, e per queste caratteristiche rappresentanti della cultura digitale. Sono naturalmente multitasking, tecnodotati con iPod, computer e cellulari, e hanno superato la dicotomia online-offline, che per loro è un continuo del quotidiano, così come la separazione tra privacy e spazi comunicativi pubblici. Tentando una classificazione anagrafica più precisa, sono 3 le tipologie di nativi digitali. Da 0 a 12 anni abbiamo i digital kids, che si possono definire touch. Sono quelli non ancora propriamente social network, ma quelli che toccano, cliccano, riconoscono e usano interfacce tecnologiche con grande agio e le usano per prove d'errore. Sono i nativi digitali cosiddetti puri. Poi abbiamo i millennials, che hanno tra 14 e 18 anni, e poi quelli tra i 18 e i 25, compresi gli studenti universitari, che fanno parte di quelli che provengono dal mondo analogico, i cosiddetti immigrati o migranti digitali. Esplora le competenze digitali di questi target, questi futuri cittadini antropologicamente diversi da chi li ha preceduti, Paolo Ferri, docente di teoria e tecnologia dei nuovi media e tecnologie didattiche alla Bicocca di Milano, lo fa nel libro Nativi Digitali, uscito proprio lo scorso 24 febbraio, edito da Mondadori. Ferri ci spiega chi sono i nativi digitali, come pensano e soprattutto come imparano. Dunque, adeguare le metodologie didattiche e comunicative a quella che Ferri definisce una nuova generazione dell'Homo sapiens è una delle sfide che le istituzioni scolastiche dovranno affrontare, ma anche chi, come le aziende nel mondo dei consumi, si trova a considerare questi target. E tra le competenze digitali di questi nativi non c'è però la capacità di filtrare le conoscenze e le informazioni disseminate in rete. Una capacità questa del filtrare che non si può insegnare, ma si può imparare con strumenti progettati ad hoc, e intorno a questo obiettivo nasce Encyclomedia, che ricorda enciclopedia nel nome, ma appunto si pronuncia così all'inglese. È un progetto interdisciplinare, 2500 i saggi, multimediale, diretto da Umberto Eco, realizzato da Encyclomedia Publishers con La Terza, proprio per diffondere in rete e nelle scuole in particolare la storia e le conoscenze con criteri di consultazione innovativi come le cronologie interattive, cioè le mappe visuali per ordinare grazie a un motore semantico i rapporti tra gli eventi e i personaggi. Sono 40.000 le schede ipertestuali nello spazio e nel tempo, e poter stabilire per esempio quanto tempo separa Gesù da Robespierre e se Cartesio e Caravaggio si sono mai potuti incontrare. Un progetto sull'uso intelligente delle tecnologie e dei social media in funzione dell'apprendimento del terzo millennio proprio per i nativi digitali. Internet, dice Eco in un ormai noto paragone, come Funes, il personaggio dello scrittore Borges, dalla memoria totale, capace cioè di trattenere tutto, ma idiota, poiché incapace di filtrare e quindi di ragionare. Internet è proprio così, contiene tutto, vero o falso che sia. I social network stanno rivoluzionando, dicevamo, anche le dinamiche professionali. La carta vincente è la strategia glocal, dice Dan Serfati, fondatore e amministratore delegato di Viadeo.com, il social network professionale che conta oltre 35 milioni di iscritti. In Italia sono 1 milione circa. Ecco che cosa ci ha raccontato qualche tempo fa quando lo abbiamo incontrato. Stavo cercando di animare questo club di entrepreneur per permettere a questa gente di fare business in realtà insieme, e ci siamo resi conto che la gente quando si incontrava parlava di due cose principalmente. La prima cosa era cosa mi vendi o cosa ti vendo, e la seconda cosa era chi conosci. Da una piccola dedicata a 100 persone nel club siamo arrivati, ma molto naturalmente, al concetto di social network. Da 100 persone oggi siamo 35 milioni di registrati in tutto il mondo, e con questa crescita che è quella in generale dai social network incredibile, noi stiamo aggiungendo tipo 30.000 persone ogni giorno. I principali social network sono tutti americani, quelli di successo. Il vostro stesso principale competitor, che è LinkedIn, è americano. Esatto. Che differenza c'è di approccio fra voi e invece l'approccio americano? Pensiamo fondamentalmente che anche se siamo in un mondo globale, il networking, prima di tutto per 80% della gente, è locale. Non c'entra niente fare networking in Cina e fare networking in Francia o in Italia o in India. In Cina l'idea di add to my contact, aggiungere ai miei contatti, è una cosa che non si fa perché non ci conosciamo. Come fa a chiedermi di essere in contatto? Quindi in Cina abbiamo una funzionalità che non esiste in Francia, che si chiama il Super Poke. È una cosa che fa, che dice ciao, ma dice solo ciao. Io passo sul sito, vedo il suo profilo, gli dico ciao. Non gli chiedo niente, non siamo in contatto, e così si inizia la conversazione. E solo quando la conversazione si è iniziata, allora sì, si può pensare di entrare in contatto sul sito. Ci sono più o meno 10.000 al giorno sul sito cinese, 10.000 connessioni fra gente, fra registrati su Tianji, che è il nome del sito in Cina, e ci sono 50.000 POC al giorno, quindi 10.000 verso 50.000. Si vede in tutto, in Cina se va sull'eBay cinese è molto diverso dal nostro. eBay in Francia o in Italia, uno che vende sedie direbbe ok, ho 10 sedie da vendere, 3 verde, 4 rosse e 2 blu. In Cina no, in Cina si dice ho sedie da vendere, poi il tipo scrive e dice ok, che colori hai? E l'altro dice beh, c'è il blu, e l'altro dice ah sì, ma non ci sarebbe anche il rosso, e così. In India per esempio abbiamo l'oroscopo sul sito. Perché un altro esempio di localizzazione, di glocal, in India non si può assolutamente immaginare fare del business senza consultare il suo oroscopo. Non si fa un job interview senza l'oroscopo, non si firma un contratto. Io non ci credevo all'inizio, eh. Mi ha fatto vedere un articolo dove questo businessman molto famoso in India doveva firmare un contratto, un multi-billion dollar contract, era scritto nel giornale, e che aveva annullato la firma perché l'oroscopo non era favorevole. Essere e avere. Nuovo in studio con Essere e Avere. Quella che sentite in sottofondo è una delle tracce della colonna sonora di The Social Network, premio Oscar 2011 proprio per questa categoria. La puntata di oggi è interamente dedicata al focus sui trend. Parliamo appunto di generazione social network e consumi. Patrizia Martello, nativi digitali o in qualsiasi altro modo si vogliano chiamare, nella prima parte li abbiamo definiti. Cerchiamo ora di capire che cosa ci sta intorno dal punto di vista dei consumi. I social network stanno ridisegnando, come noto, il mondo dei prodotti e dei servizi a partire dal modo e dai canali attraverso cui prodotti e servizi arrivano al mercato, cioè il marketing, che non a caso è anche sempre più society, con al centro cioè le persone, la società e i nuovi modi di relazionarsi, per citare Fabris e Covà, fino ad arrivare alla comunicazione pubblicitaria, alla distribuzione. In sintesi, i social network hanno cambiato il rapporto tra aziende e consumatori, tra offerta e domanda, anche alla luce di nuovi target, appunto come possono essere i nativi digitali. In questa nuova domanda i nostri nativi hanno una parte da protagonisti, sia come creativi, come sviluppatori di idee, evangelisti di marchi, ma anche recensori e tester di prodotti e servizi, in qualche caso come trendsetter, sicuramente come influenzatori d'acquisto. Si sta affermando per esempio come servizio di riferimento tra le moltissime comunità di creativi digitali WeTransfer, uno dei tanti servizi di file sharing, cioè la condivisione di dati pesanti, come i più spartani YouSendIt o SendSpace. L'evolutissimo WeTransfer che cosa fa di diverso? Integra sfondi artistici o campagne di comunicazione. Ha già 2,5 milioni di utenti al mese e consente di trasferire fino a 2 gigabytes. Dal lancio nel dicembre 2009 è stato usato da più di 11 milioni di persone. Ha avuto anche una menzione speciale al Webby Award come Best Functional Design, proprio perché è bello, utile e facile da usare. Dunque digitale uguale anche smaterializzazione. Cultofless.com è il sito culto appunto della sottrazione, di una nuova generazione che via via si libera di oggetti e commodity fisici. È un aumento significativo questo, infatti, dei prodotti digitali che nelle vite dei nativi sostituiscono quelli fisici. Pensiamo ai libri, alle riviste, ma anche ai negozi, dai CD musicali, ai giochi, agli oggetti della casa come la sveglia, gli orologi, eccetera. Contestualmente c'è chi interpreta sul lato offerta la voglia di fissare e produrre l'esperienza in immagini permanenti. Nuovi oggetti come le micro telecamere indossabili sull'orecchio, una telecamera che vede tutto ciò che si guarda e riprende per condividere ogni momento della vita e avere una sorta di diario visivo del quotidiano, immagini che poi vengono scaricate sul computer, riguardabili e soprattutto condivisibili con luoghi, volti delle persone incontrate, eccetera. Pensati per i nativi cosiddetti touch, quelli da 0 a 3 anni, che familiarizzano con la tecnologia fin da neonati e la usano come ciuccio, come gioco, anche come oggetto transizionale, abbiamo i copri iPhone di peluche in varie fogge e colori. 20 euro, si chiamano Woogie e rendono indistruttibili i malcapitati iPhone che nel video che si trova in rete su YouTube vengono addirittura leccati e mordicchiati anche dal cane di casa. Passando al mondo musicale, gli Ex Otago, per esempio, gruppo musicale di quattro giovani di Genova, il sito è exotago.it, ospitato da Tumblr e collegato a Twitter e a Facebook, usa i social network per diffondere rapidamente tra produttori, fan e amici anteprime in free download, un po' come avevano fatto nel 2007 gli antesignani Radiohead, e con il passaparola automatico attivato con il sistema Pay with a Tweet consentono di scaricare gratis il pezzo musicale in cambio di un tweet, quindi una segnalazione di preferenza alla rete di amici che funge da pagamento virtuale. La formula paga con un tweet o con un like non è specificamente legata al mondo musicale, ma è una forma di baratto, per così dire, applicabile e applicata per esempio al settore turismo, con viaggi pagati con reviewing, e trasversale anche ad altri settori. Versione tradizionale di un oggetto simbolo dell'infanzia analogica, insieme al pallottoliere, il salvadanaio. Ora in versione digitale, non ingoia monete, banconote ma carte di credito, è un concept di un device progettato da Arduino, la piattaforma open source italiana di Ivrea per lo sviluppo di oggetti interattivi. È un ibrido tra Tamagotchi e il classico maialino. L'interfaccia è un iPhone con due occhioni spalancati che si chiudono quando si inserisce la carta nella bocca. Il dispositivo trasmette dati al computer via Bluetooth e preleva e conserva parte del contenuto della carta di credito. Campagne di comunicazione che sono sempre più social, tutta digitale, per i 50 anni del marchio britannico Dr. Martens, marchio cross-generazionale e cross-culturale, indossato da diverse subculture nel corso della sua storia, oggi molto amato anche dai più giovani, più modaioli e meno punk nostalgici, per cui è stata pensata. Nel mondo dello sharing, servizi pensati per studenti via smartphone, come il britannico Whip Bikes, che ha lanciato un programma di bike sharing self-service disponibile alla Newcastle University. Si paga la registrazione al servizio, 14,95 sterline, e l'uso delle 150 biciclette messe a disposizione da Whip Bike è illimitato. Si sceglie una bici, si manda il numero di codice via SMS a Whip Bikes, che manda il codice di sblocco. La si usa fino a 30 minuti e poi la si lascia ai vari dispenser disseminati nel campus. E c'è una serie TV tutta incentrata su questa generazione, una storia raccontata, questo l'espediente narrativo, dal punto di vista di una blogger misteriosa, Gossip Girl. Buongiorno, Upper East Side, sono Gossip Girl e devo darvi una notizia sensazionale. Una delle mie numerose fonti, Melanie91, ci ha informato. Avvistata alla Grand Central, valigia in mano, Serena van der Woodsen. Un anno fa la nostra divina non era scomparsa misteriosamente per, virgolette, andare in collegio? E ora all'improvviso è riapparsa. Non mi credete? Guardate con i vostri occhi. Fortunatamente Melanie91 ce ne ha mandato la prova. Grazie per la foto, Mel. Avvistato il giovane solitario. Non riesce a credere che l'amore della sua vita sia tornato. Peccato che lei non sappia chi sia. Invece tutti sanno chi è Serena e la notizia corre veloce. Indovinate che c'è su Gossip Girl? Hanno visto Serena scendere dal treno alla Grand Central. Bene, ci stavamo giusto annoiando ultimamente. Perché se ne era andata? Perché è tornata? Mandatemi tutti i dettagli. Chi sono io? Questo è l'unico segreto che non svelerò mai. L'unico. Kiss Kiss, Gossip Girl. Patrizia, è un target sul quale si sta puntando molto. Quanto vale dal punto di vista commerciale? Ripartirei da Zuckerberg, il celeberrimo giovane fondatore di Facebook, icona del ragazzino nerd che fa business con la rete, che diventa famoso e ricchissimo. Era il 2008, oggi sono moltissime le storie di giovani e giovanissimi, generazione social network appunto, che hanno costruito la loro carriera professionale a partire dalla loro cultura digitale, dal loro sapere. Caso eclatante il 19enne Chris Putnam, hacker che ha creato un virus che era in grado di trasformare gli account di Facebook in pagine di MySpace, e Facebook, la società, non l'ha denunciato ma l'ha assunto, per esempio. E poi Rosie Seaman, originaria di Nashville, ha 24 anni, lavora da Saatchi & Saatchi a New York ed è la più giovane professionista, pare al mondo, ad occuparsi di strategie social mediali con la qualifica Social and Emerging Media Strategist. Giovani e giovanissimi. A 13 anni, per esempio, occhialuta e dallo stile assolutamente anticonvenzionale, è già una star anche lei, è la più giovane fashion blogger della rete. E Tavi Gevinson di Chicago, nel marzo 2008, ne aveva 11, ha aperto il blog Styly Rookie, in cui parla di stile, tendenze e moda, e conta già più di 4 milioni di lettori. È comparsa sul New York Times, sulla rivista di moda statunitense Pop Magazine, alle sfilate parte delle settimane della moda di New York siede ormai in prima fila, come d'altra parte ormai si confà ai blogger più influenti. E poi Lorenzo Tione, oggi trentenne italiano che vive a San Francisco, a capo di Bing, il motore di ricerca di Microsoft, quotato 100 milioni di dollari. A 22 anni era partito da Milano senza nemmeno aver concluso il percorso di studi al Politecnico con una borsa di studio. Anche i videogiochi, che continuano ad avere detrattori soprattutto tra gli educatori, ma sdoganati da studiosi come Steven Johnson già da tempo, possono avere un ruolo educativo e di sviluppo di specifiche abilità digitali. Il perché semplice sta nella natura stessa dei nativi digitali. Li si coinvolge sul terreno ludico che, oltre a favorire l'apprendimento, consente attraverso l'interattività di simulare esperienze ripetibili anche nella vita di tutti i giorni. Ed è il caso della composizione, per esempio, di pasti nutrizionalmente bilanciati che molti giovanissimi americani obesi non conoscono. Ed ecco che il videogioco, attività per antonomasia sedentaria, diventa alleato di salute e benessere. La campagna anti-obesità infantile promossa da Michelle Obama negli Stati Uniti, Let's Move, muoviamoci, coniuga appunto cultura digitale dei nativi tecnoludici con obiettivi conoscitivi sul cibo, per far giocare gli adolescenti e poi però far scegliere pasti più sani e ipocalorici anche quando il gioco è finito. E lo stesso vale per attività fisica e sport. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su Generazione Social Network e Consumi? Ce lo racconta come sempre Alessia Zampano di Memetic Club, la nostra Urban Watcher. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Come abbiamo sentito, adeguare tecniche e modalità di insegnamento all'odierna realtà digitale è un tema cruciale. Fresh Green Light è la scuola guida che nasce proprio per venire incontro alle nuove capacità di apprendimento che gli adolescenti hanno sviluppato interagendo fin da giovanissimi con la tecnologia. L'offerta formativa di questa scuola, decisamente al passo coi tempi, si basa infatti sì sulla pratica automobilistica sul campo, ma in egual misura su tecniche di simulazione virtuale e lezioni via internet. Il pacchetto base è destinato ai principianti, ricordiamo che negli Stati Uniti a 16 anni si può già avere la patente, prevede 4 sessioni di 90 minuti ognuna su un simulatore di guida, che come in un videogioco e attraverso 3 schermi piatti, permette agli studenti di sperimentare situazioni di guida di routine, ma cosa più importante, anche di guida in condizioni estreme, difficilmente e pericolosamente gestibili dal vivo chiaramente. La pioggia battente, la neve, la nebbia, l'oscurità, la guida su strade urbane o suburbane e via così. Ma non solo, la simulazione mette i praticanti nelle condizioni di valutare, stando al sicuro, le conseguenze della distrazione dovuta ad esempio all'atto di scrivere sms o parlare al telefono mentre si ha la guida, o molto più banalmente dell'eccessiva velocità. In pratica una scuola che si pone l'obiettivo di formare guidatori più coscienziosi e consapevoli, adottando strumenti che rendono il processo di apprendimento facile e divertente, ma soprattutto adeguato alle aspettative del target di riferimento. Grazie Alessia. Patrizia, i social network, la digitalizzazione della nostra vita, facile dedurlo, avranno sempre di più un ruolo da protagonista nei consumi. Si allargheranno a tutti i target, non solo agli adolescenti? Sì, diciamo che analizzare e comprendere la cultura digitale in relazione ai diversi target, che appunto vanno dalla generazione touch ai nativi agli immigrati digitali, quindi target molto estesi, sarà sempre meno un'opzione e sempre più un percorso obbligato per aziende e marchi. Con la puntata di oggi, come detto, si conclude la nostra selezione estiva, il meglio di della stagione di essere e avere. Da domenica prossima spazio ai nuovi temi e approfondimenti legati come sempre al mondo dei consumi, della pubblicità, del marketing e delle nuove tendenze. L'appuntamento è come sempre per ogni domenica dopo il GR delle 16. Vi aspettiamo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.